Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e siamo in diretta da Taormina, seconda giornata di lavori del forum di Confagricoltura Futuro Fertile. Oggi gli interventi del leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, ma non solo, anche del numero uno di Banca Intesa Corrado Passera, del presidente dell'ABI Corrado Faissola e di Jacques Attali, che è in Francia colui il quale presiede e coordina il comitato di riforme per rendere più competitivo il modello economico francese, il cosiddetto comitato commissione Attali. Devo dire che proprio da Attali è arrivata la doccia fredda, comunque l'analisi più pessimista della situazione in atto. Questo nel giorno in cui, come ricordavano i nostri GR, i dati sugli ordinativi industriali del mese di gennaio sono, per carità, dati sempre con lo specchietto retrovisore, però confermano che si è entrati nel 2009 in maniera oggettivamente pesantissima, addirittura 3,4% rispetto al mese precedente, ma meno 34% gli ordinativi all'industria rispetto all'anno prima. Un dato, purtroppo continuiamo a aggiornare i dati storici, ma un dato che non si vedeva dal 1991, dal gennaio del 91. E, tra l'altro, le variazioni più marcate hanno riguardato i macchinari, meno 41%, e quindi anche la meccanica, la metallurgia e i prodotti di metallo, meno 40%, e poi il settore auto, meno 40% anch'esso. In aggiunta, il dato dell'Istat sul fatturato della nostra impresa, anche qui si torna al 1991, un calo del 20%, quasi 19,9%. Parleremo di questo anche perché il ministro Scajola dice che i dati sono vecchi, nel senso che si riferiscono a gennaio, ora ci sono spiragli di crescita, anzi prevedo dati di marzo in grande crescita. E poi parleremo anche delle botte risposta sul ruolo delle banche. Oggi c'è stato quasi qui a Taormina una giornata dell'orgoglio bancario con Corrado Passera, ma anche con Faissola, che hanno ribadito, insomma, adesso le imprese, ha detto Faissola, non hanno più scuse, non hanno più alibi, in qualche modo parafrasando l'invito della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia di due giorni fa, che aveva detto le banche non hanno più alibi per concedere prestito alle imprese dopo le garanzie, dopo i Tremonti Bond. Faissola ha risposto: adesso sono le imprese a non avere più alibi nell'investire viste le garanzie che noi diamo. Comunque di questo parleremo di mercati finanziari. Si avviano a chiudere una settimana eccellente visto l'andamento della borsa degli ultimi mesi, con una leggera flessione, meno 0,3% MIB dell'S&P MIB, più pesante il calo a Parigi, meno 1,4%, Francoforte meno 1,2% e ancora Londra meno 0,6%. L'America perde l'1,2% sul Dow Jones e l'1,3% sul Nasdaq. Euro a quota 1,33%, i titoli in evidenza. Da un lato c'è il caso oggi di Seat Pagine Gialle, sospesa, poi riammessa in contrattazione per eccesso di ribasso. Il titolo adesso perde il 10% e non è nemmeno il peggiore. Tra i migliori invece in assoluto Arena, che guadagna il 13%, ma tra quelli a maggiore capitalizzazione buona la giornata per Fiat, che resta ampiamente sopra i 5 euro per azione. Il titolo del lingotto, poi ricorderemo anche alcune dichiarazioni di Marchionne, numero uno della Fiat, oggi. Comunque il titolo è a 5,3 euro e guadagna il 3,6. Bene anche Unipol, più 3,7. ST Microelectronics il 2,5% di rialzo, Finmeccanica il 2,2. Banco Popolare più 1,5. Pirelli, Ansaldo, STS, Monte dei Paschi 1% di rialzo. E parleremo quindi di banche, di imprese, di crisi e anche di iniziative che invece vanno a vedere quali aziende stiano assumendo. Ce n'è una che riguarda il settimanale Panorama, che con oggi in edicola presenta 10.000 almeno offerte di posti di lavoro di qualunque genere, con qualifiche basse ma anche decisamente alte, di piccole ma anche grandi e grandissime imprese. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. E la crisi economica riguarda anche la Cina, già altre volte lo abbiamo detto. Non c'è stato infatti solo il dato di ieri sul calo fortissimo del fatturato medio delle imprese americane. Oggi arriva un dato analogo anche dalla Cina. I profitti delle principali imprese cinesi sono scesi in media del 37% a gennaio e a febbraio a causa della crisi economica. E tra l'altro il crollo degli utili dei principali gruppi cinesi ha toccato punte del 96% nel settore elettronica e telecomunicazioni e dell'86% in quello di petrolio e gas. Sale però la fiducia degli americani, quella calcolata dall'Università del Michigan. L'indice infatti ha toccato 57,3 punti sopra le previsioni di 56 punti. Quindi in America continuano ad arrivare dati in chiaroscuro. Dati invece solo scuri quelli che arrivano dalla Gran Bretagna. La recessione che sta colpendo la Gran Bretagna, oggi avrete letto sui giornali che di nuovo l'Italia ha superato come PIL pro capite gli inglesi, non per un merito nostro ma per un demerito, diciamo così, della Gran Bretagna, dovuto alla crisi finanziaria, immobiliare ed economica che l'ha colpita. Oggi in Gran Bretagna infatti il PIL nel quarto trimestre è stato rivisto al ribasso dell'1,6%. Comunque è la peggiore contrazione in Gran Bretagna dall'epoca Thatcher, 1980. Questo per dire che quando parliamo di crisi parliamo di cose serie, non di così un amore per i dati negativi. I sindacati europei stimano in 8 milioni i possibili disoccupati nel 2009, ossia disoccupazione in Europa si avvia, secondo i vari sindacati europei, a toccare il 10% del totale, mentre anche a livello europeo gli ordini all'industria sono calati praticamente come in Italia, 34% in meno nel mese di gennaio rispetto al gennaio del 2008. Si diceva che anche in Italia il meno 31% significa il calo più forte da gennaio del 91, con l'auto a soffrire in particolar modo. Ma se il ministro Scajola, come ricordavo oggi a margine della presentazione della prossima missione imprenditoriale italiana in Russia, ne abbiamo già parlato con il vicepresidente di Confindustria Zegna, Radio 24 sarà presente e seguirà la missione. Dicevo, Scajola ha detto: prevedo, sono ansioso di vedere i dati ufficiali che usciranno ad inizio aprile sul settore auto, e in generale vedo spiragli di crescita nei dati che riguardano la nostra economia. Però il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat sul crollo di fatturati ordinativi del settore industria nel mese di gennaio, ha detto: attenzione, il picco arriverà nel secondo trimestre di quest'anno. È un po' singolare la tesi che la crisi appena iniziata è già finita, perché se fosse così saremmo tutti molto lieti, ma non è così. Ho capito che c'è qualcuno al governo che pensa che anche la crisi appena iniziata è già finita. Non è così. E non siamo, come correttamente è stato detto, neanche al picco della crisi, che arriverà esattamente nel secondo trimestre di quest'anno. E la cui fuoriuscita poi, naturalmente, dipenderà non solo dalle scelte che fanno gli altri governi, ma anche dalle scelte che farà il nostro governo. E da questo punto di vista non c'è niente da fare. Purtroppo il nostro governo non riesce a fare quelle operazioni di sostegno alla domanda, di investimenti e di consumi della quale c'è bisogno per aiutare il paese a uscire prima della crisi e a far uscire un paese un po' più coeso, un po' più unito, perché in caso contrario il paese uscirà dalla crisi con diseguaglianze più forti, cosa che normalmente nella crisi non avviene. E a questo proposito, ha continuato il leader della CGIL Epifani, i salari sono fermi al 1993 con un fisco che si è mangiato in questi 15 anni, praticamente 6.738 euro per lavoratore, si è mangiato guadagni di produttività. Alcune notizie societarie, passiamo poi al primo tema, di nuovo quindi banche e imprese. La Fiat, gli azionisti hanno approvato il bilancio 2008, gestione ordinaria di 3,4 miliardi di euro più 4%, un significativo calo dell'utile netto. La gestione ordinaria è la migliore di sempre, però l'utile netto è calato a 1,7 miliardi di euro, meno 16%. Marchionne, numero uno della Fiat, amministratore delegato, Sergio Marchionne ha poi anticipato che la gestione ordinaria nel 2009 dovrebbe andare a oltre un miliardo di euro e che i dividendi torneranno ad essere distribuiti quando tornerà la normalità nei mercati finanziari. E poi Marchionne ha anche detto che se dovesse andare in porto l'accordo con Chrysler potrà portare grandi benefici al gruppo Fiat. Adesso primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema, il rapporto banche e imprese, quindi il dibattito anche abbastanza acceso, dialettico, che è scaturito questa mattina durante le due tavole rotonde della mattinata al forum di Confagricoltura qui a Taormina. Allora, c'è qualche ascoltatore che dice: ma insomma, lo sappiamo che siamo messi male, perché continuate a ricordarcelo? Perché fino a prova contraria il nostro lavoro è anche dare le notizie che escono e non parlare di altro, e per cui se l'Istat continua a pubblicare, come fa da sempre, i dati su ordinativi di produzione industriale, è giusto anche darli, così poi tutti hanno le informazioni corrette, statisticamente corrette, non opinioni politiche, e poi ognuno trae le sue valutazioni. E allora, invece, quanto a opinioni diverse, dicevamo che oggi c'è stato anche una diversa presa di posizione tra i vari ospiti al forum alla seconda giornata del forum di Confagricoltura. Il numero uno di Banca Intesa, Corrado Passera, ha detto infatti: i politici si diano da fare, bastano tre regole per evitare che si ripetano crisi come quelli che stiamo vivendo. Si riferiva soprattutto al settore finanziario. Ascoltiamo quindi le tre regole citate da Passera per evitare nel futuro che si ripetano casi di crack e di crisi finanziaria come quelli che stiamo vivendo. Sarebbe bello che dal G20 venissero fuori due o tre grandi piani, grandi programmi che tutti insieme mettono in moto. Allora potrebbe cambiare un pochettino l'umore. Se noi a livello globale dicessimo che in tutto il mondo, così come già in Europa continentale era, introduciamo e facciamo rispettare tre semplici regole, perché non abbiamo bisogno di un'inondazione di nuove regole. Se noi facessimo passare che in tutto il mondo valgono le tre regole che, non essendo state rispettate, hanno fatto andare il mondo a gambe all'aria, che sono l'eccesso di indebitamento, l'eccesso, diciamo, per dirla semplice, di speculazione sulle durate, cioè le banche che si finanziavano a breve e prestavano a lungo. Questo è di per sé una malattia che si chiama speculazione grave nel mondo della finanza. E poi le passività fuori bilancio. Non è un fatto tecnico. Aver lasciato crescere bilanci che non rappresentavano la realtà, perché i debiti erano fuori, i debiti erano nelle società specializzate in cui venivano parcheggiati i debiti. Questi tre meccanismi: non sufficiente limite all'indebitamento, non sufficiente limite alla speculazione sulle durate e le passività fuori bilancio, banalità, cose che se uno vuole scrive in un giorno, queste già sarebbero state sufficienti ad evitare il disastro. In effetti, come negare che oltre a un indebitamento eccessivo dei gruppi bancari e a un eccesso di speculazione, quindi prestare a lungo, investire a breve, soprattutto il mancato obbligo in molti paesi a consolidare, come si dice in gergo, e quindi portare a bilancio anche le tue controllate che operano nei paradisi fiscali piuttosto che in altre, come altre strutture che investivano in prodotti altamente speculativi e poi che poi si è scoperto essere tossici, se la regola fosse valsa per tutti, avremmo capito prima in che tipo di pantano si stavano infilando le mitiche banche d'affari di mezzo mondo. Vabbè, adesso però insomma il tiro si alza sui banchieri e delle volte purtroppo anche sui bancari, nel senso che avete letto in questi giorni di tensioni molto forti negli Stati Uniti, minacce, addirittura attentati simbolici alle case dove abitano i manager di AIG, ma non solo. La stessa cosa sta capitando anche in Gran Bretagna, c'è molta tensione e preoccupazione per il G20. E oggi il presidente dell'ABI, Claudio Faissola, ma devo dire anche quello dell'ACRI, quindi delle fondazioni Guzzetti, hanno detto basta, dare la colpa sempre alle banche. Nel caso specifico Faissola ha rivolto un appello a Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che due giorni fa aveva detto le banche non hanno più alibi per prestare soldi alle imprese dopo aver ottenuto i Tremonti bond e aver ottenuto le piccole e medie imprese il fondo da garanzia da 1,6 miliardi. Faissola ribalta il concetto, sentiamo come. La dottoressa Marcegaglia ha sottolineato come attraverso l'ampliamento della base patrimoniale delle banche ci sia una leva aggiuntiva per far credito. E le banche certamente lo faranno in presenza di una domanda di qualità adeguata, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti. Voglio ricordare che ci sono miliardi di credito a tasso agevolato che sono giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti e che da anni e non vengono utilizzati. Quindi bisogna cercare di rimanere ancorati alla realtà, ecco, e non soltanto ad affermazioni un po' direi forse fondate sull'entusiasmo che la dotazione di patrimonio possa di per sé stessa essere risolutiva di tutti i problemi. Quindi rispondo alla Emma Marcegaglia che noi non avremo più l'alibi per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, ma le imprese non hanno più alibi per quanto riguarda le iniziative che dovranno assumere per fare investimenti. Così il presidente dell'ABI, ossia dell'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faissola, intervistato dalla nostra Anna Marino. Dicevo che Faissola però ha anche invitato a porre fine alla campagna di discredito nei confronti delle banche. Sentiamo. Ieri all'ABI gruppi di No Global hanno aggredito la nostra sede, hanno voluto essere ricevuti, ecco, i giornali oggi ne danno testimonianza e altri episodi si sono verificati. Quindi io ho sempre cercato in questa mia funzione di rappresentanza dell'industria di cercare di non aizzare risse nei confronti di chi che sia. Sono convinto che questa fosse e sia stata la strada giusta, continuerò a comportarmi nello stesso modo, ma è indispensabile, non necessario a questo punto, che soprattutto chi ha responsabilità istituzionali nel nostro Paese, come del resto ha iniziato a fare nell'ultimo periodo, ecco, come suol dirsi, abbassi un attimo il tiro. Perché se ci sono 40 milioni di clienti delle banche, è assolutamente normale che una percentuale, anche piccolissima, ecco, non sia soddisfatta delle banche. E allora questo è l'invito di Corrado Faissola. Devo dire che quando ci troviamo di fronte a episodi di violenza sono sempre e comunque ingiustificabili e ingiustificati, che comunque il mondo della finanza non gode di buona stampa in questo periodo o di buona opinione pubblica, beh, un po' dovrebbe anche aspettarselo. È sbagliato fare tutto un'erba un fascio, ci mancherebbe, ma insomma in anni passati invece un certo tipo di finanza ha permesso anche ai gruppi bancari di macinare utili su utili, di raddoppiare, triplicare il valore del titolo in borsa, con un vantaggio anche per i manager bancari. E poi insomma, io ricordo che per anni il problema di questo paese è stata la classe politica, la casta, i politici, insomma, cosa dovrebbero dire? Lungi da me difendere i politici contro le banche, però insomma, bisogna ricordarsi che quando si sta e si è esposti verso il giudizio dell'opinione pubblica ci possono essere anche le critiche pesanti che devono restare, e su questo siamo tutti d'accordo, all'interno, diciamo, di una dialettica corretta e mai violenta. Sentiamo comunque anche il presidente dell'ACRI, Giuseppe Guzzetti, fare un invito analogo, sempre più al forum di Confagricoltura. Ha detto basta usare le banche come capro espiatorio. Oggi lo sport nazionale è di attaccare le banche. Siccome sono banchiere posso parlare con grande serenità. Questo è uno sport che non serve a nessuno. Allora, i nostri banchieri forse hanno avuto le stoccose, no? Adesso taglieremo tutto, via i bonus, va benissimo. Però si dice il sistema bancario italiano, a differenza degli americani che ne hanno fatto di tutti di più, Reagan, Clinton, Bush, via tutte le regole, fuori bilancio, tutto, noi no, noi queste robe non le hanno fatte in Italia. Però nel momento in cui si dice che il sistema bancario è sano, allora bisogna essere coerenti. Se è sano è perché la vigilanza fatta dalla Banca d'Italia e i banchieri che hanno amministrato queste banche non sono questi delinquenti che oggi vengono additato all'udibrio pubblico. No, io lo dico, non dovrebbe mai essere così, bisognerebbe avere maggiore capacità, noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo quello che riusciamo nel discernere tra banche d'affari americane e banche magari di credito cooperativo, banche popolari italiane che hanno sempre fatto il loro lavoro bene, prestando i soldi. Che però insomma qualche problema nel rapporto banca impresa e banca cliente si sia verificato non l'abbiamo creato noi. I tassi e il giro di vite ai privati e alle imprese non è un'invenzione della stampa. Comunque sarà anche il momento dell'orgoglio bancario. Adesso sentiamo cosa ne pensa il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, intervenuto sempre qui al forum di Confagricoltura a Taormina. Ha detto no, il problema della restrizione del credito è un problema reale, deve diventare un tema politico. Tutti noi abbiamo la consapevolezza che le banche italiane non hanno vissuto il dramma di altre banche e di altri sistemi bancari e di altre realtà finanziarie, ma voglio dire, di qua la santificazione forse un attimo il passo bisognerebbe, perché voglio dire questo, che un uomo politico si preoccupi di una restrizione del credito che c'è e che tutti constatano e che credo i dati di tutte le organizzazioni imprenditoriali verificano, credo che sia doveroso. E sempre per quello che riguarda l'idea dell'UDC Casini, sempre questa volta in tema di agricoltura, non più di banche. È chiaro che in questi due giorni uno dei tempi delicati è stato il tema delle quote latte, ce ne siamo occupati con i diretti interessati a suo tempo, il ministro Zaia e anche il presidente della Confagricoltura Vecchioni. Il decreto che di fatto, secondo l'accusa della Confagricoltura, è abbastanza oggettiva, andava a avvantaggiare soprattutto 4.000 agricoltori che in questi anni non hanno rispettato e quindi sono stati multati le quote latte. In realtà di 4.000 agricoltori su 1.300.000.000 di multe da pagare, se si fa ben vedere sono 1.000 agricoltori, non di più, che da soli hanno l'85% di queste multe. Modificato al Senato il decreto, è stato invece rimodificato in commissione alla Camera e ha ridato la possibilità in sostanza a chi è stato multato di partecipare alle nuove quote dilazionando il pagamento. Sono insorti gli agricoltori, soprattutto quelli di Confagricoltura Lombardia e della zona bresciana dove si produce la maggior parte del latte italiano, Brescia, Cremona. La tensione è così oggettivamente alta che al forum di Confagricoltura qui a Taormina non è venuto il ministro dell'agricoltura Zaia, nonostante invitato. Questo ha creato obiettivamente ulteriori attriti. Sentiamo su questo il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini. Noi difendiamo quelle persone oneste che si sono messi in regola e che hanno pagato il debito con lo Stato. E non è in alcun modo accettabile. Abbiamo fatto un decreto che è umiliante per i cittadini onesti. Noi in un momento di crisi economica di questo tipo non possiamo accettare l'idea che i furbastri prevalgono e gli onesti vengono sostanzialmente umiliati. Naturalmente abbiamo la Lega che vuole l'imposizione della fiducia. L'imposizione della fiducia su una cosa simile, altro che Porcellum. Cioè, questa è una cosa gravissima se il governo appone la fiducia su questa cosa qui. Io oggi mi permetto di rivolgere un appello al Presidente del Consiglio, poiché lui è il primo degli italiani, perché è quello che ci governa legittimamente, perché la gente l'ha voluto. Io credo che da Taormina debba partire un appello di tutti al Presidente del Consiglio perché lasci decadere questo decreto che è una porcata. Vedo anche molti messaggi, immagino, di agricoltori, di allevatori, di produttori di latte furibondi per questo decreto. Sì, obiettivamente noi pensavamo la cosa si fosse risolta quando è stato cambiato al Senato, poi è stato reintrodotto alla Camera. Non capiamo nemmeno l'utilità politica, visto che si tratta di 1000 allevatori multati che non hanno rispettato le regole, che non hanno pagato le sanzioni, che non hanno rispettato le quote, la maggior parte dei quali veneti, ma non solo. Molti di voi scrivono anche, ci sono due deputati leghisti che appartengono anche a questa categoria. Vabbè, insomma, il problema è che si sta creando un impasse oggettivamente spiacevole per mille disonesti, vogliamo dire a tutta. Vediamo, ci chiediamo se abbia veramente un senso difendere 1000 disonesti in una maniera così, così forte, che ha portato appunto la Lega a chiedere la fiducia sul decreto delle quote latte in Parlamento. E 41 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni da Taormina per la seconda giornata di lavori del forum di Confagricoltura. Abbiamo sentito le varie dichiarazioni di Corrado Passera, ministro delegato del gruppo Intesa San Paolo, di Corrado Faissola, presidente dell'ABI, e anche del presidente dell'ACRI, quindi delle fondazioni bancarie, Guzzetti. Insomma, attenzione, basta sparare alzo zero sulle banche. Non vi dico i commenti che stanno arrivando al 349-238-6666. E infine abbiamo sentito anche il leader dell'UDC Casini criticare duramente la Lega per aver posto la fiducia sulle quote latte. Allora, poi non ne parliamo più. La vicenda quote latte è molto semplice: 1.600.000.000 di euro di multe per 4.000 produttori che non hanno rispettato in questi anni le quote previste dall'Europa. Gli altri le hanno rispettate, hanno pagato le multe o si sono comprati le quote, per cui stiamo parlando di persone scorrette. Di questi 4.000, 1.000 da soli fanno l'85% di tutta la multa, per cui si riduce ulteriormente il numero di persone scorrette. Che cosa prevede il decreto? Che a queste persone che hanno violato le quote latte venga data la possibilità di rateizzare il pagamento delle multe con un periodo giudicato dagli agricoltori e allevatori onesti eccessivamente lungo, e poi, e qui obiettivamente sa di beffa, anche che possano partecipare all'attribuzione di nuove quote. Ora, va bene tutto, ma insomma, intanto si mettessero in regola e poi possono partecipare all'attribuzione di nuove quote. Vabbè, comunque, e su queste si è arrivati allo scontro anche tra Confagricoltura e il ministro dell'agricoltura Zaia. Adesso però la borsa. Chiude negativa, una settimana più che positiva, la borsa di Milano: MIBIT meno 0,7, S&P MIBIT meno 0,8, Parigi meno 1,80, Francoforte meno 1,30, Londra meno 0,7, l'America perde 1,5 punti in questo momento sul Dow Jones e l'1,7 sul Nasdaq. Nel finale Atlantia chiude con un più 4,1%, Fiat più 3,3%, Campari più 2%, ST Microelectronics più 2%, come Unipol, Pirelli e Snam Rete Gas più 1,6%. Sul fronte opposto il peggior titolo è Saipem meno 4,2%, Unicredit meno 2,8% come Italcementi, il 2,4% lo perde Mondadori ma anche Mediolanum, il 2,2 il calo di Mediaset, l'1,80 quello di Autogrill ed Eni, l'1,70 quello di Impregilo e Telecom Italia, 1,5 di flessione per UbiBanca, l'1% lo ha perso invece CIR, Fondiaria Sai, Enel e Tenaris. Dicevo che oggi l'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore Radio Core è in sciopero e quindi non vi sarà il collegamento con i colleghi, ma c'è in collegamento Giulio Baresani Varini di Banca MB. Buonasera dottore. Buonasera. Vorrei un commento con lei su alcuni casi di borsa, ma in generale poi su questa settimana che si è chiusa. Andiamo intanto su Fiat, che ha ripreso a correre, ma anche ST Microelectronics. Mi sembra di capire che il mercato a questo punto scommette in un buon dato sulle immatricolazioni come conseguenza degli incentivi sia italiani ma anche europei. Sì, perché molti hanno frenato l'acquisto nei mesi scorsi attendendo gli incentivi. Inoltre la riduzione della cassa integrazione è stata comunque una buona notizia. Non si attendono buone notizie, basta una diminuzione delle brutte notizie per rincuorare. In più negli Stati Uniti si va avanti col salvataggio di General Motors e Chrysler e nella percezione degli operatori sembra sempre più possibile che l'operazione Chrysler a zero rischi e zero costi, almeno iniziali, potrebbe rivelarsi una mossa strategica indovinata. Ancora sui titoli, ST Microelectronics positiva più 2%, Atlantia più 4,1%, ST corre anche sul rally di ieri. Oggi le banche hanno ripiegato, devo dire che dopo una buona partenza di nuovo per il Banco Popolare, un più 5% in mattinata, abbiamo visto le banche chiudere con delle flessioni. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, dottor Baresani Varini, vorrei capire invece il commento sulla settimana, perché è la seconda settimana quasi piena in cui la borsa non solo non perde tanto ma guadagna e anche in maniera abbastanza significativa. La domanda che tutti si stanno facendo è la fine del periodo più brutto, l'Armageddon come l'ha chiamato ieri il ministro Tremonti, il rischio Armageddon evitato, oppure si tratta, ahimè, di un rimbalzo così tecnico di qualche acquisto per poi tornare a vendere prima dell'estate? ...17:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, commentiamo adesso la settimana di borsa, poi do anche qualche risposta ad alcuni ascoltatori, anzi una la do subito. Dunque, c'è chi dice: con l'abilità tipica dei giornalisti, infallibile, intoccabile, hai lasciato intendere che le popolari e i crediti cooperativi sono le uniche banche che fanno bene il loro lavoro. No, abbiamo detto una cosa diversa, che sicuramente molte banche, e devo dire, qui non ho nessun problema a dirlo, che ci sono tante banche del territorio che hanno imbarcato meno prodotti tossici, che hanno continuato a fare bene il loro lavoro, ci mancherebbe. Se poi uno vuole pensare in maniera maliziosa, lo pensi. Le banche italiane che hanno per ora fatto ricorso ai Tremonti Bond sono banche che o per le controllate estere o per certe società di leasing o di Italy Leasing di casa nostra avevano imbarcato prodotti tossici, cioè facevano un lavoro un po' diverso da quello che dovrebbe fare una banca: valutare il rischio e concedere credito ai privati o alle imprese. Chiudo la risposta. Baresani Varini, cos'è un rimbalzino giusto per arrivare a Pasqua un po' più così sereni, oppure si può dire che un insieme di operazioni da migliaia di miliardi in questi mesi hanno evitato il peggio e la parte più bassa di questa discesa si è toccata? Difficile dirlo, sicuramente è un rimbalzone violento. Dal 9 marzo praticamente si è quasi solo saliti, ma noi eravamo arrivati al 9 marzo che la borsa italiana, dopo aver perso il 50%, cioè dimezzato l'anno scorso, in due mesi e qualche giorno era sotto del 36%, tra l'altro esatto, con un record costante di essere tra le peggiori nel 2007, nel 2008 e anche l'inizio del 2009, pur in una situazione dove a livello macroeconomico non siamo mai stati particolarmente brillanti, ma nei disastri generali forse siamo stati un po' meno cicale di altri stati europei che magari predicavano fino al giorno prima. Quindi il rimbalzo ci stava tutto, si veniva dove ogni weekend si temeva la nazionalizzazione di qualche banca ed era tutto un tirarsi dietro di voci, un giorno di Banco Popolare, un giorno di Unicredito e via dicendo. Era un periodo di aumenti di capitale un po' anche inaspettati, come quello di Enel, poi sembrava che lo dovesse fare l'ENI, poi problemi in generale. Improvvisamente, perché il sentiment conta molto, la situazione è girata, qualche dato economico sulle case un po' meno brutto del previsto, qualche intervento un po' più risoluto, un po' più concreto, sia di Obama sia di Geithner, nel modo anche un po' giustizialista, un po' dannoso anche per i contribuenti americani, ma sicuramente un po' più efficace, non solo in punto di annuncio, ma forse anche un punto un po' di restrizione di tutte queste difficoltà nel credito. Nel frattempo anche sono scesi gli spread, i maggiori costi che dovevano pagare i debiti periferici rispetto a quelli della Germania. L'est europeo, pur con tutti i suoi problemi, si è un po' calmato, e il dollaro invece è sceso notevolmente, ma di fatto questo anche ha favorito un po' la ripresa delle materie prime. Il petrolio sopra 50 ha rincuorato. Adesso siamo a dei livelli tecnici su cui bisogna rifiatare. Oggi è il primo giorno in cui si rifiata, ma non in modo violentissimo. E quindi adesso bisognerà passare il testimone a dati macro e microeconomici un po' più buoni, e qui non vedo però la possibilità, perché sono attesi dei PIL 2009 in Germania, non so, meno 4, meno 5, che sono cose inquietanti. Però ci sono dei dati anche anticipatori sui semiconduttori, sul mercato dell'auto, su quei settori, su anche gli spread, i cosiddetti CDS delle banche. Cioè non ci sono più solo notizie negative, se poi le mettiamo tutte insieme, per quanto la borsa anticipi di 6-9 mesi, se il 2008 è stato il disastro dei mercati, il 2009 è il disastro dell'economia, e anche una ripresa nel 2010 non sarà certo a V, ma sarà più lenta, soprattutto in Europa. Quindi molte ricoperture, molto uscire dalle esagerazioni, ma da qui a comprare a man bassa ce ne passa. No, quello che vorremmo vedere per essere più tranquilli su un mercato che è tornato a credere anche in se stesso è vedere meno, vedere più selezione nei settori, nei titoli. Cioè, in questi primi due mesi, come lei ricordava, fino a inizio marzo la borsa aveva perso un altro 36%, un 50% l'ha perso nel 2008, e lo perdeva tutto. Cioè uno poteva produrre componentistica, poteva produrre gomma, giornali, essere una banca, produrre nanotecnologie, calava comunque. Ecco, lei nota un po' più di, come lo chiamate voi, stock picking, ossia scelta dei titoli? Diciamo questo, c'è stato un momento in cui tutte le aziende sembrava che producessero amianto anziché vendere assicurazioni, latte o altre cose. Successivamente sono partite le blue chips, quando uno vedeva una Generali sotto 10 euro, un Unicredito a 0,70, o si tornava al baratto o si sbagliava. Era un momento in cui tutti vendevano anche l'argenteria. Poi però ci sono delle stranezze, una Tisca le annuncia che non riesce a pagare il debito, che non riesce a vendere l'Inghilterra, oggi vale di più di quando ha fatto questi annunci. Molte small cap sono rimbalzate dopo il cosiddetto presentazione star, società ad altri requisiti, non comunicano frequentemente, hanno incontrato un po' di comunità finanziaria e improvvisamente ci si è accorti che non erano tutte semifallite, ma che l'imprenditore, pur difendendosi in un contesto molto difficile, andava avanti. Ci sono state tante trimestrali, l'Unicredito, bene o male, con tutte le critiche che gli si può fare, 8.000 miliardi di vecchie lire di utili li ha fatti. A parte Banco Popolare, che ha fatto comunque una sana pulizia di bilancio, tutte le altre hanno chiuso in utile. Quindi l'annuncio di tante chiusure d'anno, pur con scarsissima visibilità sul futuro, ha chiarito sul fatto che le situazioni non erano ancora peggiori di quello che si sospettava, e molti erano privi completamente di titoli. I fondi comuni, quelli cosiddetti direzionali, non avevano un finanziario, non avevano un ciclico, avevano solo farmaceutici alimentari, che infatti sono rimasti fermi. Per quanto riguarda invece hedge fund, anche speculatori privati, vendevano opzioni, perché non si può andare allo scoperto coi titoli, ma lo si può fare coi derivati, e quindi è stato tutto un inseguire. Adesso il dubbio è soprattutto di chi ha molto poco, magari ha guadagnato in passato stando prudente. È questa l'inversione o c'è una prossima? Secondo me non è già l'inversione, ma comunque qualche il tarlo del dubbio a chi finora è stato corto è venuto, quindi almeno è combattuta, mentre prima era sparare sulla Croce Rossa. Potremmo, Bresani Verini, citare Churchill dopo la battaglia di Londra, non è l'inizio della fine, ma è sicuramente, o potrebbe essere, la fine dell'inizio. E con questo io la saluto, le auguro buon fine settimana, vedremo poi cosa succederà sui titoli bancari. Ovviamente lei citava i dati di 2008, io ricordo anche Citigroup, Deutsche Bank e Barclays e Credit Suisse diffondere dati dei primi due mesi del 2009 decisamente migliori rispetto alle attese, che erano quasi tutte molto molto pessimistiche. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, sempre in diretta dagli studi di Radio 24 qui a Taormina, dove si sta concludendo la seconda giornata di lavori del forum di Confagricoltura Futuro Fertile, e di nuovo utilizzeremo molti degli spunti emersi questa mattina, soprattutto gli interventi del numero dell'Avi Faisola, dell'Acri Guzzetti, del leader dell'UDC Ferdinando Casini, di Corrado Passera, diverse valutazioni sul ruolo delle banche, sulle banche come capro espiatorio e sulla crisi, ma anche come annunciato di Jacques Attali. Vorrei andare brevemente al riepilogo delle notizie principali di questa giornata economico-finanziaria. Borsa che chiude per la prima volta da 6-7 sedute, vado a memoria, in flessione. Meno 0,3%, poca roba Milano rispetto ai cali superiori al punto percentuale del resto d'Europa. E poi i dati dell'Istat, le notizie in breve. Anche il nostro GR ve l'ha già ricordato, ma insomma meno 31% gli ordinativi dell'industria a gennaio rispetto a un anno prima, il dato è il più basso dal 1991. Anche col fatturato dell'industria non si scherza, meno 20%, il minimo dal 1991. I cali più significativi: mezzi di trasporto, metallurgia e prodotti chimici per quello che riguarda il fatturato. Per quello che riguarda gli ordinativi invece, i macchinari meno 41, anche qui metallurgia meno 40 e mezzi di trasporto. Ma il ministro Scajola ha detto: i dati dell'Istat di oggi sono vecchi, sono di gennaio, in effetti vedo già degli spiragli anche e soprattutto a partire dal settore auto. Ribatte il leader della CGIL Guglielmo Epifani: la crisi non è finita, il picco di questa crisi si avrà nel secondo trimestre. E poi Epifani è tornato su un tema che abbiamo già anticipato, lo ha ricordato il quarto rapporto IRES CGIL, che i salari a livello netto sono fermi ai livelli del 1993, mentre il fisco in 15 anni si è mangiato guadagni di produttività per 6.738. È il cosiddetto fiscal drag, un concetto un po' lungo da spiegare, ma insomma il fiscal drag è il principio per cui l'aliquota fiscale non tiene conto dell'inflazione, e quindi se io guadagno o guadagnavo 10 milioni di lire negli anni 70 non è come guadagnare 10 milioni di lire negli anni 90, ma il fisco, non tenendo conto dell'inflazione, ti va a tassare sempre come aliquota, come se fossero, diciamo, 10 milioni di lire all'ora. L'ho spiegato in maniera un po' sintetica, ma questo è il principio del fiscal drag. E ancora ha detto la CGIL: se fosse stato applicato l'accordo separato sugli aspetti contrattuali, vi sarebbero stati altri 6.000 euro di potere d'acquisto in meno. Sentiamo comunque la proposta che è arrivata da Guglielmo Epifani al governo di erogare 100 euro medi di aumento mensile in busta paga, aumentando le detrazioni fiscali per lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori. Abbiamo verificato che gli incrementi di produttività che si sono generati in Italia soltanto in parte sono finiti al lavoro e al suo reddito, e quella quota è stata sostanzialmente prelevata dal fisco. Quindi se vogliamo aumentare il valore delle retribuzioni nette reali dei lavoratori, bisogna avere politiche contrattuali in cui chiediamo soldi e delle politiche fiscali che restituiscano al lavoratore dipendente quell'aggiunta di fisco che a parità di salario il lavoratore paga normalmente. L'anno scorso questa cifra è stata una cifra imponente, 7 miliardi di euro che i lavoratori dipendenti hanno pagato in più al fisco. Se il fisco li trattiene e non li restituisce al lavoro dipendente, il lavoratore dipendente non riuscirà ad avere un incremento reale delle proprie retribuzioni. Sempre sul fronte occupazione, oggi i sindacati europei in vista del G20 di Londra hanno stimato tra i 7 e gli 8 milioni di disoccupati in più quest'anno in Europa, con una disoccupazione che dovrebbe superare il 10%. E restiamo in tema di occupazione per un'iniziativa, diciamo, che riguarda il mondo della stampa. Non siamo soliti invitare colleghi e giornalisti, però c'è un'iniziativa oggi presente su Panorama, il settimanale che appunto ne dicono oggi. È un'iniziativa con, se abbiamo ben capito, 10.000 offerte di lavoro di qualunque tipo. Ne parliamo direttamente con il direttore di Panorama, Maurizio Belpietro. Ciao direttore. Buonasera a tutti, ciao. Che cosa sono queste 10.000 offerte di lavoro? Anzi, andiamo con ordine. Come mai Panorama, che è un settimanale che tutti conosciamo, che si occupa di tutto, della cronaca, degli esteri, dell'economia, dello spettacolo, della società, vuole fare concorrenza ai Dorsi Trova Lavoro dei quotidiani? No, per l'amor di Dio, no, non vogliamo assolutamente fare concorrenza ai Dorsi dei quotidiani, però è un'idea nata un po' da una considerazione. La crisi c'è, è innegabile, nessuno la vuole nascondere, è grave, come ci siamo detti da più volte, però è altrettanto vero che ci sono anche dei segnali positivi, ci sono anche delle aziende invece che crescono, si espandono, hanno dei progetti importanti e quindi assumono. Non ci sono solo quelle che licenziano, magari quelle che licenziano saranno anche di più, ma insomma ce ne sono tante che invece hanno intenzione di fare delle nuove assunzioni e abbiamo cominciato a raccogliere alcune di queste notizie, abbiamo visto che effettivamente c'erano numerose offerte di lavoro, anche qualificato, e abbiamo pensato di farne addirittura un fascicolo a puntate, siamo già arrivati a oltre 10.000 e pensiamo di andare avanti, insomma, quindi ne abbiamo pubblicate una parte sul numero che è in edicola, le prossime saranno pubblicate sul successivo e così via, credo che almeno 4 o 5 puntate ci saranno, forse anche di più, insomma. Io sono rimasto colpito perché si tratta anche di lavori estremamente qualificati, di società importanti, di nomi anche conosciuti, come Decathlon, come per esempio Pricewaterhouse, che è una società di revisione finanziaria e di consulenza dei servizi per le aziende, ci sono aziende anche che si occupano invece di assicurazioni come Europa Assistance, come la Coca-Cola, e si cerca un po' di tutto, ci sono occasioni di lavoro interessanti, certo si va dal magazziniere alla commessa per appunto grandi magazzini, ma ci sono anche posti da ingegnere, da analista finanziario, da esperto in paghe, in contributi, insomma, da programmatore, ci sono davvero tante occasioni. Ecco, magari meno offerte per posti da banchiere, ma quello, diciamo, sì, meno offerte per posti da banchiere perché abbastanza. Non vanno, però da analista finanziario sì, ma forse quelli servono per capire come non finire dentro la crisi finanziaria che abbiamo assistito nelle scorse settimane, nei mesi scorsi. Ecco, direttore Belpietro, come avete selezionato? Tu ricordavi che l'offerta è la più varia dei lavori, diciamo, di una certa qualifica, quelli di qualifica più alta, però come li avete selezionati? Allora, il nostro criterio innanzitutto è stato quello di non rivolgersi, come solitamente si fa, solo alle società di intermediazione del lavoro, che sono un po', magari anche a volte, non voglio assolutamente criticare, ma un po' anche posti di lavoro un po' meno qualificati, a tempo, così. Siamo andati direttamente attraverso delle associazioni che si occupano di coordinare un po' le offerte del personale, sono associazioni che raggruppano i direttori delle risorse umane, come si chiamano solitamente. Certo. E attraverso questo canale abbiamo un po' contattato tutti questi dirigenti e insomma abbiamo cavato un database che è importante. Si tratta di assunzioni un po' che avvengono su tutto il territorio nazionale, quasi sempre si tratta di assunzioni a tempo indeterminato dove è richiesta una precisa qualifica, un curriculum preciso, insomma, e in questi inserti noi inseriamo non solo il nome del direttore delle risorse risorse umane di ogni singola azienda, ma anche l'indirizzo per mandare un curriculum vitae e chiedere insomma di essere assunti, e diamo anche qualche suggerimento su come fare questo curriculum vitae. Beh, insomma, tra l'altro, come tu ricordavi, i contratti sono i più vari anche come tipologia, da quello a tempo determinato o Coco Pro a quello invece per cui si cerca una qualifica, diciamo, di assunzione vera e propria. A questo punto, in bocca al lupo non tanto, non solo a voi, ma quanto a chi questi curricula poi dovrà mandarli veramente. Sì, credo che soprattutto in bocca al lupo lo dobbiamo fare a chi cerca lavoro, e auguriamoci che lo trovi presto. Grazie al direttore di Panorama, Maurizio Belpietro. Grazie a tutti voi. Ultima parte di Focus Economia, e allora dicevamo, cerchiamo di capire che cosa prevedono alcuni osservatori che tra l'altro non sono tacciabili di appartenere a un qualche schieramento politico. Mi riferisco all'economista Jacques Attali, economista francese, che è presidente della commissione Attali, è quella che deve riformare e rendere più competitivo il modello economico francese, di cui fanno parte anche alcuni italiani, Franco Bassanini e Mario Monti, su tutti. Ieri il ministro dell'economia Giulio Tremonti, qui da Taormina, ve l'abbiamo fatto ascoltare, aveva detto: beh, sembra che si sia evitato l'armageddon finanziario negli Stati Uniti e in Europa, qualche segnale che la lancetta non è più solo negativa, lo stiamo ricevendo. Aveva citato nel caso italiano il trasporto di merci, che era tornato un po' a crescere sia su gomma che nelle dogane. Non la pensa nello stesso modo Jacques Attali. The financial crisis today is far from being solved. La crisi finanziaria è lontana dall'essere risolta e credo anche che non sia stata nemmeno affrontata. Questa crisi è nata soprattutto a causa del troppo debito, e i soli strumenti che si stanno usando per affrontare la crisi concorrono ad aumentare il totale del debito. Non è la soluzione. È come se si desse troppo ossigeno a qualcuno che ha avuto un incidente stradale, senza pensare a un altro rimedio. Inoltre, non si stanno cercando di risolvere gli squilibri a livello globale tra le banche, tra la quantità dei prestiti e la quantità di risorse a disposizione delle banche stesse. Ciò a cui stiamo assistendo è l'aumento dell'erogazione di denaro a livello mondiale. Stiamo stampando valuta. È come se si passasse dalla maschera d'ossigeno alla tracheotomia per curare il sistema. Le banche sono immesse direttamente nella sfera del controllo dei governi e all'inizio si vedrà una stabilizzazione, ma è artificiale. La verità è che nulla per risolvere la crisi è stato fatto. Il piano del segretario americano Geithner non è visto come una soluzione globale e credo che si debba affrontare il fatto che siamo ancora di fronte a una sorta di scatola nera per ciò che riguarda le perdite del sistema finanziario. We are still in front of a global black box as far as the losses of a financial system is concerned. Quindi poco ottimismo per Jacques Attali, che è anche molto scettico sugli esiti del prossimo G20, quello che si terrà a Londra il 2 aprile, con numerose contestazioni annunciate di No Global, ma non solo, che tra l'altro Radio 24 seguirà con diversi collegamenti in diretta. Sentiamo il perché di questo scetticismo in un altro passaggio dell'intervento tenuto questa mattina qui a Taormina da Jacques Attali. Personalmente penso che il vertice dei G20 sarà un fallimento, anche se si dirà che è stato un successo. Si sosterrà che si è trattato di un vertice di successo, perché verranno prese alcune decisioni riguardo le agenzie di rating o sull'inizio del controllo del mercato dei derivati, degli hedge fund o delle risorse del Fondo Monetario Internazionale. Ma secondo il mio parere, nulla sarà fatto seriamente sull'aspetto più importante, e che riguarda il trasferimento dei fondi. Nulla verrà fatto per intervenire sulla City di Londra, che è il posto più pericoloso. Niente sarà fatto sui sistemi di controllo e sulla riorganizzazione complessiva del sistema. Nulla sarà fatto a livello globale per rispondere al bisogno di crescita e neppure sul fronte della stabilizzazione delle monete. Speriamo che Attali abbia torto, ma insomma il suo scetticismo è pesante e riguarda gli elementi più strutturali di questa crisi. Dove erano i controllori, dove erano le regole? Perché si è lasciata in mano la finanza ai finanzieri, è una cosa troppo delicata, o perché il credito è stato gestito in questo modo? Temi che secondo Attali non troveranno una risposta nel G20, da cui arriveranno indicazioni generiche. Noi ci auguriamo di no. Devo dire che oggi Corrado Passera, sempre qui da Taormina, amministratore delegato del gruppo Intesa San Paolo, aveva ricordato come basterebbe fare tre regole rapidamente, ci si metterebbe meno di un giorno, ossia controllare che le banche non possono indebitarsi in maniera eccessiva, controllare l'eccesso di speculazione sulle durate, ossia prestiti a lungo e investimenti a breve, e obbligare le banche a mettere nel bilancio le passività di società che investivano in titoli tossici. Queste le tre regole semplici invocate da Passera, che tra l'altro ha ricordato come i crediti non buoni facciano male anche agli stessi imprenditori, e ha poi spiegato perché ha fatto ricorso il gruppo Intesa San Paolo ai Tremonti Bond, e ne ha chiesti tanti anche rispetto ad altre banche, ne ha chiesti per 4 miliardi. Noi abbiamo detto di sì, perché è una specie di assicurazione a condizioni ragionevoli che ci sentiamo di prendere, perché nessuno sa quale sarà la situazione dell'economia e della società nei prossimi mesi ed anni, e quindi abbiamo detto: metti che il mondo diventi ancora più difficile e noi non abbiamo fatto questa operazione, come la spieghiamo ai nostri azionisti e ai nostri clienti? Quindi l'abbiamo presa con l'idea di restituirla il più presto possibile, perché non è una cosa fisiologica comunque avere delle emissioni di quasi capitale fatto dal pubblico, però questo ci permette anche di evitare alcune delle distorsioni gravi che ci sono creati in Europa con tutto il denaro che è stato dato a tante banche nostre concorrenti dal pubblico a larghe palate. Quindi con questo siamo ancora più forti, con questo possiamo affrontare meglio la grande difficoltà di questo periodo. C'è uno spazio maggiore per crescere negli impieghi, nei finanziamenti. Noi speriamo che la domanda sufficiente per esaurire queste riserve sia molto maggiore di quella che è oggi, perché come dicevo il problema oggi non è di offerta ma di domanda in tanti casi. E si chiude con questa analisi di Corrado Passera la puntata e la settimana di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, e a Pietro Accorte e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica e in regia. Noi ci risentiamo da lunedì alle 17 in poi per raccontarvi un'altra settimana dell'economia e della finanza.